Italia in controluce. Ci sono piccole vicende che fanno la storia. Italia in controluce le fa emergere e le narra tutti i giorni. Buongiorno da Daniele Biacchessi. La prima storia giunge da Palermo e prosegue uno dei classici filoni di narrazione introdotto da Italia in controluce, cioè il racconto delle città del crimine attraverso la voce degli scrittori. Oggi sbarchiamo a Palermo con Raffaella Calandra. Nei vicoli di quella che fu la città delle 100 moschee, ora nobiltà e decadenza, stranieri e italiani, il massimo della speranza e l'abisso della ferocia convivono sotto le stesse arcate. Palermo e le sue mille facce, la pluralità di una città nella mescolanza della sua lingua, dove parole e inganni si combinano come consonanti e vocali all'ombra del grande dizionario di mafia. Palermo, triste capitale di Cosa Nostra, dove uno stesso gruppo di ragazzi è uscito dal campetto di calcio una volta varcata la linea della giovinezza, si avvia verso opposte scelte, come i commercianti davanti ad una stessa richiesta di pizzo. Palermo, città di illusionismo e dissimulazione, dove, ora che le bombe dei boss tacciano e i grandi latitanti sono stati quasi tutti arrestati, tutto si può più facilmente mescolare e confondere, come nella migliore delle tradizioni dei siciliani, uno dei titoli scritti da Gaetano Savatteri. La sua criminalità si è un po' normalizzata, in sintonia con quella che è una strategia di Cosa Nostra di essere, diciamo, una mafia sommersa. Questo ha fatto sì che, ad esempio, venissero alla luce fatti di cronaca nera più ordinari. Ci sono dei fenomeni, come ad esempio l'uccisione dell'avvocato Fragalà, ex deputato, che assomigliano a un fatto di cronaca nera violentissimo, ma che invece probabilmente nella filigrana fanno intravedere una strategia mafiosa che adesso camuffa i suoi delitti. Camminando per i vicoli della città potrebbe sembrare che la mafia s'affumò, per dirla con le loro stesse parole, svanita in una nuvola di silenzio dopo il grande clamore, ma in realtà, anche se mimetizzata con i suoni e gli odori della città che cambia, aleggia sempre come un'ombra imprescindibile. Perfino il furto d'auto può essere commesso su concessione di Cosa Nostra. Il ladro d'auto a Palermo, prima di smontare l'auto rubata e rivenderla, ha l'obbligo di tenerla ferma 24-48 ore in attesa che qualcuno eventualmente reclami quell'auto, che potrebbe essere un personaggio particolarmente importante, una persona legata in qualche modo a Cosa Nostra. Palermo, città di uomini che conoscono l'arte di annacarsi, muoversi restando fermi, o di uomini che non si voltano indietro, per usare un altro titolo di Savatteri. Gli uomini che non si voltano sono quelli che non hanno dubbi sul proprio passato. Credo che una città come Palermo sia quasi impossibile non vedere la storia recente. Quello che ad esempio sta succedendo, di questa rilettura delle grandi stragi, del fallito attentato all'Addama e a Falcone, improvvisamente i dubbi e i sospetti che dietro questi grandi attentati ci siano pezzi dello Stato, pezzi dei uomini dei servizi segreti, ci fa capire che la storia di una città come Palermo è una storia che costringe continuamente a voltarsi indietro per vedere dentro i coni d'onda quali sono le cose che si possono scoprire, le cose che si possono sapere e quelle che probabilmente resteranno per sempre un mistero. Gli opposti convivono in questa città plurale di mercati e salotti buoni, di omertà e denunce. Un Giano bifronte che svelò entrambe le sue facce il giorno della cattura di Sandro e Salvatore Lo Piccolo, i boss di Brancaccio. Escono dalla questura in manette. Suo figlio Sandro è un ragazzo elegante che manda baci, è un ragazzo che ascolta la musica e frequenta le discoteche della città. Ebbene, di fronte a lui ci sono dei suoi coetanei con le magliette con scritto addio pizzo, che saltano e ballano insultando per il resto del latitante importante, dicendo: chi non salta è un mafioso. Questa convivenza, addirittura questo scontro all'interno della stessa generazione, è un po' il simbolo di Palermo. Palermo è inoltre una città dove i professionisti affermati, medici, politici abbiano relazioni con mafiosi che sono quelli gli stessi che uccidono e sparano. Palermo, città dove prendere la giusta distanza spesso è una scelta di vita e a volte non c'è spazio per le mediazioni. Così, nella stagione delle bombe, neppure la letteratura riusciva ad essere altrove, per necessità trascinata nella voragine di Capaci e divenuta militante col boato di Via D'Amelio. Ora la storia è diversa, la morsa della mafia è più subdola, ma dà più aria, e in Sicilia Sicilia ci si può permettere il lusso anche di scrivere gialli e noir e comunque di scegliere. Italia in controluce. E oggi ricordiamo uno dei grandi protagonisti del cinema italiano, Massimo Troisi, il racconto di Floriana Liuni. Annunciazione, annunciazione! Tu, Marie, fai il figlio Salvatore! Gabriele ti ha dato la buona notizia! Annunciazione, annunciazione! Gabriele, tu sei scemo! È il 1977 e il trio di giovani attori napoletani La Smorfia fa ridere un'Italia che ha da poco scoperto la TV a colori. I tre attori sono Lello Arena, Enzo De Caro e Massimo Troisi, approdati al varietà televisivo dopo aver debuttato con commedie legate alla tradizione napoletana, recitando dapprima in un garage e poi in radio. Negli studi Rai di Torino la sceneggiatrice e scrittrice Anna Pavignano incontra per la prima volta Massimo Troisi, che diventerà per lungo tempo il suo compagno di lavoro e di vita. Siamo conosciuti mentre lui girava Non Stop a Torino, lui faceva parte appunto del gruppo La Smorfia, erano quelli al centro dell'attenzione sia per l'aspetto umano che per la comicità particolare. San Gennaro, io sto qua, tu già mi conosci a me, no? E sono sempre quello che se mi potesse fare grazie, dai. Una vista per la propria, San Gennaro. Loro, devo dire, quando hanno fatto il loro primo pezzo, che era San Gennaro, hanno stupito tutti, perché era un modo di fare comicità che non era solo risata fino a se stessa, non era cabaret, ma appunto aveva uno spessore tale per cui era teatro. Massimo Troisi spicca subito nel trio La Smorfia. Nato a San Giorgio a Cremano nel 1953 e cresciuto artisticamente nello stile di Edoardo De Filippo e Totò, Troisi inventa personaggi della comicità surreale e indolente che osservano con disincanto la realtà napoletana senza per questo perdere la voglia di scherzarci sopra. Vorrei approfittare del fatto che questo sketch è trasmesso in Eurovisione. Vorrei dire a tutti i napoletani che stiamo bene. A Napoli tutto industria, commercio, tutto florido, mai come questa volta. Stiamo andando veramente bene. È finito l'Eurovisione. Noi a Napoli stiamo guaiati. Nel 1981 comincia l'esperienza da regista di Massimo Troisi e la sua collaborazione con la sceneggiatrice Anna Pavignano, rafforzata dal rapporto personale che li lega. C'è stato un percorso che è cominciato da Ricomincio da tre fino a Pensavo fosse amore, invece era un caleste, film che doveva essere in qualche modo riassuntivo e conclusivo di questa tematica della coppia. Il film Il Postino è il primo tentativo di esplorare un tema diverso, quello della poesia. Purtroppo resterà anche l'ultimo. Nel giugno del 1994 Massimo Troisi si spegne nel sonno per problemi al cuore con cui conviveva da anni. Però non è affatto scomparso dal panorama artistico italiano e nemmeno dal cuore della gente che l'ha amato e che ha riso insieme a lui. Massimo Troisi ha fatto cultura in una maniera vicina alla gente. Il suo modo di recitare, di interpretare i personaggi è un modo che ha fatto scuola. Dopo Massimo certe modalità di gestire, di muovere le mani, sono diventate un po' un pezzettino di recitazione che è entrato a fare parte del patrimonio generale, insomma, degli attori. Era la seconda e ultima edizione di Italia in controluce per quest'oggi 2 luglio, l'archivio di tutte le puntate su radio24.it. Il nostro gruppo di Facebook sta crescendo di giorno in giorno, Radio 24 Italia in controluce, oppure le mail per le vostre domande, controluce@radio24.it. Lunedì alle 6.30 su Radio 24 torniamo come sempre con altre storie.